lei è un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Si vergogna, si dimetta dalla posizione che ha. Io non so come fare a tenerla lì. Anche questo è vero, ha ragione Libano. Un insultatore, ma roba, io esprimo un insultatore. Le mie idee. Le do un consiglio, dato che io non sono d'accordo con lei, mi chiuda la, no, la comunicazione, perché no. Lei è perché? Anche un personaggio del genere, sì, che quando non fa girare le palle chiude la comunicazione. Si vergogni. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, sei uno stronzo, pervertito, difendi chi va a troie, sei arrogante, presuntuoso, hai fatto pure il gigolò, ma hai anche dei difetti. Io ti amo! Cruciani, ma niente niente fosse pure ricchione. Problemi loro, sono froci, problemi loro. Buonasera Giuseppe, buonasera rotto in culo di Parenzo. Parenzo è un assassino! Parenzo è lo scroto di George Soros! Soros! Ma non me ne frega un cazzo a me del signor Soros, perché tanto non mi dà niente! Parenzo! Non si entra nell'angolo rotture della zanzara! Dai cazzo! No! Ragazzi, eccoci qua, iniziamo col signor Tiziano Renzi. Tiziano Renzi che manda a fare in culo i giornalisti che lo circondano. Sapete qual è oggi una delle notizie? A noi ce ne frega, diciamo, relativamente. Beh, però c'è questa intercettazione in cui Renzi attacca il padre e dice: dimmi la verità. E poi tante altre cose. Dimmi la verità, un po' non ti credo, eccetera, eccetera. Signor Tiziano Renzi, circondato dai giornalisti, padre dell'ex presidente del Consiglio, nonché segretario del Partito Democratico. Non volevo disturbarla. Ma si levi dalle palle, per favore. Avete rotto i coglioni. Ma avete rotto le palle, chiaro? Io la lasciavo anche andare dove voleva. Mi diceva, non volevo parlare. Ma vada a fare il culo lei e tutti i fai con me. Amico mio, come mi fa godere Tiziano Renzi, sì amico mio, così, continua così, continua così. Beh, tu sei veramente come un il personaggio... boss di Bucinasco, ah, no. Come il no, boss beh, di Bucinasco. Paragone che non so uguale, se piacerà la reazione, non lo so, ma la reazione è stata la stessa. L'altro giorno i giornalisti hanno circondato il signor boss di Bucinasco e quello gli ha detto cani, no andatevene, che cazzo volete qui, più o meno la stessa cosa, adesso non sto paragonando le due figure, ecco, però appunto, la reazione è stata la stessa. Abbiamo già, amico mio, tanti di quei problemi. Sì, tanti. Certo, non c'è dubbio. In sei anni di lavoro qui ho accumulato più querele, abbiamo accumulato più querele io e te che qualunque giornalista sul panorama italiano. Quindi non farei paragoni leggermente azzardati alle 18:39. No, ma non volevo paragonare Tiziano Renzi a un boss dell''Ndrangheta. Sto dicendo che la reazione assolutamente, la reazione che c'è stata è praticamente la stessa, cioè persone che non vogliono avere rotture di cazzo. Dunque, caro Tiziano Renzi, avanti tutta con lo sdoganamento di questo linguaggio, avanti tutta. Nel merito, amico mio, sei il padre dell'ex presidente del Consiglio. È normale che dopo che esce una roba del genere ti vengano a rompere i coglioni. Amico mio, lo so che tu non vuoi la gente sotto casa, non ti piacciono troppo le domande. Però, dai. dai. Oneri e onori, sei il babbo. Però mi è piaciuta la risposta, la risentirei, ecco, perché è uno, alla fine, uno un po' di coglione. Vedrai che domani il signor La Corte, quel criminale di La Corte che tiene, come dire, il timone di questa cosa dalla cabina di regia, vedrai che domani il signor La Corte lo metterà nella sigletta, quella odiosa sigletta introduttiva in cui io mi chiedo questo, ma la Cassazione è Zuccaro ad esempio, non si può occupare di La Corte e di quello che mette nella sigletta introduttiva anziché occuparsi delle ONG che salvano migranti? La Cassazione, anziché occuparsi dei Sikh, degli amici Sikh, persone buonissime che non hanno mai rotto i coglioni a nessuno. Tu dovresti essere a favore. Quella imbecille della Lores, che ogni tanto qui viene chiamata in causa e telefona e fa l'elogio delle armi, dovrebbe essere a favore del fatto che il Sikh porta un adorabile coltello che non l'ha mai usato. Hai mai visto un Sikh che ha rotto le scatole a qualcuno? No, mai. Io ho visto Cruciani che rompe le scatole a qualcuno, ma non ho mai visto. La Lores, cioè, noi siamo più pericolosi dei Sikh. Il povero Sikh, tranquillo, bello, con quel suo abito tradizionale anche elegante, quella sua sciaboletta che si porta con effettivamente sé. Ma nessuno, non c'è mai stato un caso solo. La Cassazione, anziché occuparsi del Sikh, si occupasse di quel criminale La Corte che costruisce ad arte questi audio. Dai. Comunque, Renzi chiamò il papà Tiziano: non dire bugie, non ti credo, ok? Poi gli chiede se ha mai incontrato Romeo, insomma altre cose che ci interessano poco, tranne una cosa interessante su Medjugorje che dopo diremo. No, poi dice di non tirare in ballo la madre. La risposta del signor Tiziano Renzi a questa all'intercettazione, al fatto che naturalmente viene circondato dai giornalisti, io la voglio risentire perché a me è piaciuta. Avanti così. Non volevo disturbarla. Ma si levi dalle palle, per favore. Avete rotto i coglioni. Ma avete rotto le palle, chiaro? Io la lasciavo anche andare dove volevo. Avete rotto i coglioni. Mi diceva non volevo parlare. Ma vada a fare il culo lei e tutti i suoi colleghi. Allora, devo dire la verità, che l'atteggiamento del giornalista è particolarmente mite. Cioè, però è la prova che quando tu non vai subito all'attacco, cioè ogni tanto bisognerebbe andare all'attacco, no? Noi ogni tanto abbiamo anche noi un atteggiamento mite, diciamo, vediamo un po' di mettere a suo agio sì, invece subito all'attacco, perché se partiva all'attacco magari quello era spaventato, no? Si spaventava un attimo. Sì, vabbè. Apriamo un altro capitolo, che è quello di Berlusconi. Ieri ha detto che Macron ha una bella mamma. Sì, una battuta classica in stile. Una bella mamma. Anche la signora Pascale è un bel mammo, allora, no? Cioè, bravo, anche la signora Pascale è un bel mammo da questo punto di vista. Poi uno dice: papà, è normale, un mammo, un papone, un papi, quello un che. Papi, ecco. Però funziona anche al contrario, no? Cioè, dice uno: fa più scandalo l'uomo di 80 con la. Fa meno scandalo l'uomo di 80 e la ragazza di 27. Sì, però, amico mio, quello è. Un ragazzo di 39 anni, però con belle esperienze di lavoro alle spalle e soprattutto con una bella mamma che l'ha portato per braccio ancora quando era bambino. Sì, qui per andare nel campo della politica, Parenzo, che mi annoia tantissimo. C'è da dire che se un domani dovesse tornare Presidente del Consiglio Berlusconi... No, questo non succederà. Secondo me, se un domani dovesse... No, non succederà mai più. Sarebbe bello vedere l'incontro tra Macron e Berlusconi con la signora, con la moglie. Sarebbe meraviglioso. Però Berlusconi dice delle cose che sono l'esatto contrario di quello che dice Salvini. Poi alla fine vedrete che si accorderanno. Ve lo dico adesso. Dice tutto quel contrario di quello che dice Salvini. Sì. Innanzitutto gli piace Macron, uno grandi esperienze, le banche, eccetera, cosa che Salvini odia. Detesta. Poi senti questa cosa: vogliamo Alfano come alleato. Cioè, con Salvini che considera Alfano una specie di bandito a mano armata, dice di tutto su Alfano. Vogliamo Alfano come alleato, ma ragazzi, dai. Alfano non è un alleato che noi vogliamo per quanto riguarda anche le elezioni nazionali. Ma dai, ma chiudiamo tutto, ma basta con queste buffonate ipocrite. Mi piace quando dici chiudiamo tutto, bravo. Poi dice tutto, uscire dall'euro è impossibile, quello fa la campagna contro l'euro. Dice tutto il contrario di Salvini. Poi alla fine, ve lo dico, qui troveranno un accordo basato sull'ipocrisia. No, basato sul governo, sulla voglia di governare, sulla totale ipocrisia. Voti. Dice sono per il proporzionale. Dice delle cose, tutto il contrario di tutto. Però qui oggi voglio fare l'elogio del Papa. Per la prima volta, credo, voglio fare l'elogio di Papa Francesco. Beh, ragazzi miei, stavolta lo devo dire. Ma per carità, restano tutte le cose che diciamo, a meno che dico, soprattutto che dico, sull'immigrazione, su questo aspetto un po' clownesco, eccetera. Però qui lasciamo. È interessante quello che dice. Per la prima volta dice chiaramente che Medjugorje questa farsa di Medjugorje è una buffonata. Adesso non lo dice proprio così, no, cioè non è che usa, dice una buffonata, termini zanzareschi. Però a modo suo lo dice, e dice anche: io sono più cattivo di quelli che hanno dei dubbi, voglio essere più cattivo. Mi piace questo papa cattivo in questo caso, che dice: senti che bellissima questa cosa, a me piace un altro tipo di Madonna, dice. Mi piace un'altra Madonna, non quella che funge sostanzialmente da ufficio del telegrafo, lui dice, da ufficio postale, la Madonna che porta i messaggi, questa buffonata delle veggenti. Ragazzi, basta con queste stronzate, non vi fate infinocchiare da quelli che vi portano lì per sentire le veggenti, perché sono stronzate, lo dice pure il Papa, arrendetevi! Le apparizioni, le presunte apparizioni attuali, ha i suoi dubbi. Io personalmente sono più cattivo. Senti. Io preferisco la Madonna Madre, nostra madre, e non la Madonna capo di ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a tal ora, invia un... E questa non è la mamma di Gesù. Ma ragazzi, ma è un genio questo qua. In questo caso è un genio. Ragazzi, adesso non mi dite ti contraddici, fai, eccetera. È un genio in questo caso. La comunicazione, io ho sempre detto che dal punto di vista della comunicazione è fortissimo. Però, ragazzi, questa cosa qui è pazzesca. La Madonna non è un... non è che un centro, no? Un ufficio postale che ogni giorno spedisce messaggi. Non vi fate infinocchiare dalle offerte, viaggi, non c'è nulla, lo dice anche il Papa, non c'è niente. Basta con questa cosa, chiudiamo. Perché non chiude Medjugorje? Dovrebbe chiudere, no, finire, chiuso, chiudiamo giù la clera. Chiudiamo tutto, dai, chiudiamo. Milioni tutto di persone. Ma scusa, dici che dobbiamo chiudere noi, non deve chiudere Medjugorje. Spacciatori, spacciatori di menzogne ogni giorno, scusami, dai. Spacciatori di menzogne, ma lo dice il Papa! Ma lo dice il Papa, scusami, adesso, tra le righe, che dice il Papa? Che sono dei buffoni, le veggenti, ogni giorno devono interpretano quello che non esiste, non è che arrivano i messaggi della Madonna ogni giorno, lo dice anche lui, dai, su! Chiudi! Siamo al top! Siamo al top, Cruciani, siamo al top! Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta La Zanzara. I wanna now, I wanna know. I got to rock, I need to roll. If you can't hang with the speed I go, I'm gonna roll tonight. Pensate a quanto sarebbe bello se voi due diventaste concime, letame, eh? Non sarebbe bellissimo? Ma tu sei un imbecille però. Un cretino. Allora ragazzi, la conferma concime di democrazia. La concime conferma democrazia. Che il Papa in questo caso ha ragione. Mi viene anche dal fatto che il signor Celentano è sceso in difesa di Medjugorje. Signor Adriano Celentano. Beh, senti che cosa dice. Ottimo, e se invece fosse vero, come io credo, non pensa invece che per chissà quali fini ora a noi sconosciuti potrebbe essere una sua celestiale strategia l'aver scelto quei sei ragazzi per con loro degli incontri giornalieri e di proposito sempre alla stessa ora, la Madonna, eh? E se fosse questa la piccola svista del Papa, cioè rimprovera il Papa, hai avuto una svista, Celentano, ragazzi, siamo veramente alla follia, dai. Oh, a proposito dell'inchiesta su Profugopoli, chiamiamola così, cioè questa vergogna della gestione dei campi di accoglienza. Tu devi dire vergogna per la criminalità organizzata che ha gestito, non per i campi di accoglienza in sé. Sì, sì, perché assolutamente sì, anche questo. Questa è criminale, non, l'accoglienza non è inutile, criminale. Non mi fregare così, non credere di furbo fregarmi, su questa non cosa. Fare furbo tu. Criminale è chi fa soldi sulle spalle dei migranti. Che l'arrivo questo dei migranti è un crimine, è una eccolo noi con Cruciani, eccolo che è arrivato, eccolo. È un affare. Avanti. L'immigrazione è un affare sporco. Ma lo Stato questo deve garantire che non ci siano infiltrazioni, purtroppo, che le cose vengano fatte bene. Quando ci sono i soldi per l'immigrazione, quando ci sono e i quattrini, allora non fare neanche quello opere pubbliche. Quello accade. L'immigrazione non è un business, ma quando è gestito è con comunque la correttezza. Senti che cosa dice questo tizio dei rossi. Qui stiamo parlando di criminalità organizzata. No, ma senti, ho capito, amico mio, sull'immigrazione. Sulle spalle e non ti di viene il sospetto. Il cibo per i maiali a quelle ma persone. Ma non ti viene il sospetto? Tu ti devi indignare solo per questo. No, non ti viene. Non perché vengono accolti. Ma non ti viene il sospetto. Non fare il coglione, mi fa ridere. È così. Ma non ti viene. Ridere. Non fa ridere. Ridere un cazzo. No, fa ma non ridere. Ti viene. Scusami, il sospetto. Con tutto il non ti viene il sospetto. Civile e militare, no, l'ascolto. Non ti viene il sospetto, ripeto per la quarta volta e non mi interrompere. Non ti viene il sospetto che non si blocchino le navi o non si impedisca alle navi di arrivare perché c'è il business dopo. Non ti viene il sospetto. Il sostituto di Zucchero. Il sostituto procuratore di Zucchero. Mandatemi la canzone. No, godo. Ah, godo. Godo per Zucchero. Avevo nominato Zucchero, ho goduto. La canzoncina, ti prego. Mandamela che godo. Dai, dai, dai, cazzo. Dai, dai, dai, dai, Zucchero, non si molla un cazzo. Siamo tutti con te. Zucchero, la la la la. Vedi, ha aperto un faro. Tu sei deviante. E dopo, sono iniziate a valangare le inchieste. Ma quale faro? Lascia perdere un mio collegamento. Ma meno male che Gratteri. Ma Gratteri ha le prove, ha arrestato delle persone, il signor Gratteri. L'andrangheta nel centro. Gratteri, no, il procuratore che ha condotto l'inchiesta. No, ma che c'entra? Ma tu ti devi. Come no? L'andrangheta nel centro. La notizia che stai commentando di oggi c'entra perché il signor Gratteri, il dottor Gratteri. Sì, ma lo lascia perdere questi dettagli, non me ne frega niente. Non è un dettaglio. 36 milioni i clan si sono pappati sulle spalle dei migranti. Altro che davano sulle da spalle. Mangiare il cibo. Grazie ai migranti, grazie ai migranti. No, grazie, sulle spalle, non perché gli migranti. Davano da mangiare il cibo dei maiali grazie ai migranti. Ai migranti. È questo che ti deve fare indignare. Grazie all'arrivo non dei l'accoglienza, migranti. Non l'accoglienza in sé. Lui e il parroco, peraltro, lì, il parroco. Senti, senti che dice questo tizio dei Rodi Carabinieri, senti che dice. Il centro di accoglienza e la misericordia erano il bancomat della mafia. Grazie ai migranti, grazie ma ai migranti c'entra? Che non si bloccano, grazie ai migranti. Sei come quello che guardi il dito e senti, non la luna. Senti quest'altro, è uguale. Sacco, quest'altro che era nella foto accanto ad Alfano, Sacco. No, non solo accanto ad Alfano. Beh, tanto Sacco. Era accanto ad Alfano. Non diciamolo. Era solo accanto ad Alfano. Diciamolo, è stato fotografato. Ma lo vabbè, dici, diciamolo. Mi sbagli? Era Sacco si è Alfano, fatto. No. No, con Renzi, con Salvini, con no, Berlusconi. Salvini. Con Berlusconi, su! Leonardo Sacco, nell'anno 2002 dichiara 800 euro al fisco. Le perquisizioni di questa mattina hanno portato fino a questo momento ad rilevare una somme contanti per circa 200.000 euro. Ragazzi. Grazie ai migranti, ma Marco cosa, da Trento, grazie. Vai, quelli sono state grazie vittime. Ai migranti che arrivano. Io fossi nei migranti, farei class anche action. Sì, causa lo Stato, magari certo. Class action contro lo Stato per non avermi tutelato. Sacco si è fatto fotografare nell'ordine con Matteo Renzi, con Salvini, bene, con Marco Berlusconi, con male. Grasso, meno male. Siamo Piero Grasso, con Papa Francesco. Cioè sto Sacco, uno passava e si faceva la foto, quindi non Marco vuol dire da niente. Trento, vai Marco. Parenzo, no. Se tu fossi un migrante sarebbe Mese Italia, sarebbe contenta. Ecco. In genere gli idioti guarda. Chiamano dalle 19:15, il primo delle 18:54, cominciamo bene. Ma oggi, se vuoi prego. Ti chiamo anche dopo. Vai Marco, sì, no, dimmi, no, dai, forza. Basta una volta, a me sembra veramente strano che ogni volta che si parla di Medjugorje, dei miracoli che possono succedere, dove una persona può credere o non può credere ai miracoli, dai, sì. Sembra che tanti milioni di persone ci vanno, tanti ci vanno e tornano totalmente Papa. Diverse. Ma non è che andare chiedere al Papa, io dico una cosa. Ci sono persone che vanno a cercare qualcosa che nella società di oggi non trovano. Vadano. Io posso credere pure al Divino Telma. Meglio il Divino Telma. Meglio il Divino Telma. Meglio il Divino Telma di Medjugorje. Meglio il Divino Telma. Ma prova a chiamare Brosio. Il numero di Mezza Italia. Chiama Brosio. Sì, sì, per carità. Possiamo chiamare. Ma che me ne frega di Brosio? Lo sappiamo quello che pensa Brosio. Lo sappiamo. La sua prima di Medjugorje, come la va benissimo. Sto dicendo che uno può credere pure agli Spaventapasseri. Può credere pure a tutto quello che vuoi. Lo stesso Papa dice che è una buffonata. Io vorrei, a parte che non ha detto questo, ma sì, dai, in sostanza l'ha detto, non è che parla così, però uguale, dai, è uguale, no, dai. No, non è la stessa cosa. Ma come non è uguale, dai? No, non è la stessa cosa. Vabbè, ma adesso non andiamo. La domanda che io voglio fare a te, qual è? In questo caso purtroppo per te, io sono quasi sempre d'accordo con te. Ma stavolta qua io non capisco, vorrei capire perché questo accanimento. Ma non è accanimento, l'ha detto il Papa, è una buffonata, non esistono le veggenti, sono puttanate, ciao. Ma allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. no? Io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. La zanzara. Ma buonasera, buonasera miei piccoli schifosini. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Culo niente. Ma come culo niente? Culo niente. No, cioè, c'è mia madre che mi scrive i messaggi con scritto siamo al top. Io quando sono al lavoro non faccio altro che cantare papà sta andando a trans, papà sta andando a trans. Mi avete rovinato la vita in pratica. Dopo si schienano, mi dimetto dalla maggioranza silenziosa, sono molto indignato. Maggioranza silenziosa. Parenzo, quando attacchi così godo. Allora, giustamente, Parenzo, un quotidiano britannico che si chiama The Independent, pensate come esordisco in quest'altra parte di trasmissione, The Independent, dice Silvio Berlusconi, che ha 49 anni di più della sua attuale fidanzata, prende in giro Emmanuel Macron e sua moglie. Vedi che hanno una eco internazionale. Bellissimo. Silvio Berlusconi, che è di 49 anni più grande della sua fidanzata, prende in giro il matrimonio di Emmanuel Macron. Meraviglioso. Ma pare, ma è possibile che te in 40 anni non hai trovato ancora una che ti ha squiltato sulle cosce? Io boh. Questo bisogna sempre tenerlo presente come punto di riferimento. Beh, come, l'hai sentito bene o no? No, non l'ho sentito bene. Ma senti bene, non importa, ti faccio risentire perché sei distratto. Ti faccio risentire bene. Non sono distratto per niente. No, ti faccio risentire. Ma pare, ma è possibile che te in 40 anni non hai trovato ancora una che ti ha squirtato sulle cosce? Io boh. È importante, ragazzi, dottore, è importante. Dottore è plende appellitivo. Naturalmente. Con delle tolle gentili. Allora, ragazzi, ma vi pare normale che dei professori e non so chi altro se la prendano col signor Paolo Ruffini, che per carità è amico mio, ho letto, ho visto tutto, ho visto sono tutto. Anche forse in conflitto di interessi, ma amico Paolo sa che se dice una cazzata siamo i primi a dire amico mio hai detto una cazzata. Era un incontro con gli studenti sul appunto. Linguaggio tra l'altro sul linguaggio in rete eccetera, con il ministro c'era il ministro Fedeli, ma il signor Ruffini ha utilizzato nei confronti degli studenti ha utilizzato le parole degli studenti. Cioè ha utilizzato il linguaggio che loro di solito per usano. Per entrare in empatia con loro. Assolutamente, questo così, criticato da alcuni bigotti da Trieste e poi non so da chi, per avere detto le parolacce. Qui bisogna fare una grande operazione culturale, quella che sta facendo Ruffini, una grande operazione culturale, Parenzo. Perché nel colloquio con i ragazzi, alcune parole, se sono dette in senso positivo e non per disprezzare, ovviamente una trasmissione radiofonica è una trasmissione radiofonica, non c'entra assolutamente nulla, ma anche in una situazione da convegno, diciamo, no? Se tu utilizzi con i ragazzi delle parole che loro usano quotidianamente, entri in sintonia. Poi ti faccio sentire una cosa. No, ma sono più gravi le parole che ha detto Ruffini, che è stato criticato per le parolacce, eccetera, o quello che ha detto uno degli studenti che è salito a un certo punto sul palco? Ti faccio sentire prima un paio di Ruffini, vai. Bella applauso a Riccardo, ci vedeva una sega. Ciao, bella ficona mia. Ciao, anche te, ti vedo un rimastone totale, No, io sei un professore? Preside. Vabbè, non te la tirà, dai, ora cazzo, subito il preside, vuole esagerare. Sarà una giornata diversa, spero non sia, insomma, un rompimento di coglioni enorme. Guardate Riccardo, cazzo. Scusate, spostate voi fotografi, guardate Riccardo che cioè, o ti stai cagando addosso oppure sei emozionato. Questa è una serie mancava di... Mancava solo la signora del Bufalo. No, ma la questione è molto semplice. Può sembrare eccessivo perché abbiamo preso dei pezzettini, naturalmente sì. La cosa è durata 3 ore. Però il tutto davanti al ministro della pubblica istruzione. Il quale ha detto diciamo che si è dovuta tappare le orecchie. Sì, però si è tappare le orecchie. E però ha detto che ha condotto benissimo. Ma lasciamo perdere questo. A un certo punto sale sul palco un signore, un ragazzo, egiziano se non sbaglio. O comunque di origine egiziana. Senti che dice. Adesso hai detto che picchi te. No, perché chi picchi? Le persone che mi stanno sul cazzo, no? Perché? Perché mi ragazzi, oh, ma cioè, almeno si parla così, cioè, voglio dire, dai, dimmi la verità, perché? Boh, mi danno fastidio. Ma chi ti dà fastidio? Chi ti dà fastidio? Gli italiani, i cinesi, i gay, i toscani, i livornesi. Gay, I gay? Sì. I gay ti danno fastidio? Troppo. Perché? Sembrano strani. Sembrano? Strani. Ragazzi, ma di che è stiamo pazzesco. Parlando? Cioè, no, ma è incredibile. Cioè, grazie a questo linguaggio, grazie anche a questo linguaggio, è riuscito a tirare fuori da un ragazzo che è salito lì tutto l'odio. Adesso lasciamo perdere che fosse di origine egiziana, non me ne frega niente, l'Islam, queste cose qua. È riuscito a tirare fuori tutto l'odio per i gay. Ha tirato fuori quasi una mezza notizia, non dico comunque una grande operazione sociologica. E cos'è che viene criticato, signor Ruffini? Per le parolacce, per i cazzo, una grande rottura di coglioni. Ma dai, su, dai. Sì, sono d'accordo con te. Lo hanno praticamente bullizzato. Lo hanno bullizzato dopo. Mentre in realtà, scusa, ma che cosa è più grave? I cazzi detti da Ruffini? Sì, o il fatto che questo abbia detto che odia i gay, non sopporta no, i gay? Ma poi soprattutto che gli danno inviti... fastidio. Ha detto anche mi danno fastidio i gay. No, ma appunto, certo. Perché sono Ruffini, strani. Scusa, senza utilizzare parolacce, tra l'altro. Mi danno fastidio i gay perché sono strani. Molto più grave questo. Sicuramente. Molto più grave bravo, questo. Bravo, giusto, giusto. Vai Paolo, avanti così, si continua, si combatte, si combatte. Si lotta contro ma l'ipocrisia. Ma contro, combatte, sì, come no, contro grande. L'ipocrisia, sì, sì, sì. Ti farò ascoltare alcuni audio che mi ha inviato dopo. Sì. Giuseppe da Foggia, vai, vai. Giuseppe da Foggia. Dimmi, dimmi Giuseppe, dimmi. Oh Beppe, sei un grande. Vai, vai, vai, dimmi, me, dimmi. Secondo me tu sei il diavolo in persona. Sì. Quello sottospecie di essere che c'è al tuo fianco è solo una merdata. Ciao ciao. Ma che vuoi, Giuseppe? Non ho capito che cosa dove. Ah, è un coglione, dai. Con chi c'è? Dino, provincia di Torino, dai. Tu li raccatti, tutti tu li raccatti, Cruciani, ma dove cazzo li trovi? Che ne so, uno chiama da Foggia, ma qui non... in culo. Ma chi? Ma dici chi? Che vada a sfanculo, ma che chi? Le bocchine con lo ma che fai, stai tranquillo, oh, che, chi è? Accademia della ma Crusca. Ma chi è questo, credi? Francesco da Pisa, vabbè. Ciao Francesco, Cruciani, dimmi, ciao Parenzo. Dai Francesco, allora, dimmi. Io e i miei amici dell'università oggi abbiamo capito e abbiamo le prove che la prostituzione illegale penalizza, oltre le prostitute, noi studenti e i lavoratori onesti. Perché oggi hanno chiuso un centro di cinesi dove noi studenti andavamo a divertirci, come sapete, a farci fare sì, i pompini. Ma dove, scusami questo, dove Pisa. Accadeva? Certo, a Pisa. Vabbè, come ne hanno chiuso uno, ce ne saranno altri 200. Sarà contento il tuo babbo di sentirti che anziché studiare. Era uno dei più convenienti, chiaramente. Sì, ho capito, invece... amico mio, ma qual è che hanno chiuso? Spiegami, dammi un indirizzo, un numero di telefono, lo chiamiamo. È in via Francesco D'Abuti. Non lo so, non so. Via Francesco? Ma perché lo hanno chiuso? Non lo so, perché perché è illegale la prostituzione, è chiaro, e facevano finali a sorpresa. Vabbè, amico, invece... ma uno se la rischia, no? Apri per un periodo, fai prostituzione là dentro, fai quello che devi fare, cinesi, eccetera, a un certo punto chiudi. Cioè, certo, arriva la polizia cinesi, e chiudi. Per avere questa attività pagano le tasse, e invece, per esempio, sui quotidiani ci sono tutti gli annunci. Vabbè, ma pranzo, Francesco, ma con me... E nessuno lì rompe coglioni. Ma con me sfondi... E non pagano nemmeno le tasse. Sì, scusa, Francesco, non è giusto. Vabbè, d'accordo, per me, con me sfondi la porta aperta, non è questo il punto. No, infatti l'ho detto per il punto non è questo. I massaggiatori cinesi, da una vita che c'è questa situazione qui in varie città d'Italia, si sono sostanzialmente convertiti in posti dove si pratica la prostituzione. Mi sembra abbastanza chiaro, no? Vanno chiusi. Uno se la rischia, per me non dovrebbero nemmeno andare ad indagare là dentro. Meno male che ci sono persone che si fanno pagare. Spero che le cose siano normalmente fatturate, chi se ne frega. Se fanno le seghe, ma che reato? Ma quando andare a chiudere loro che pagano le tasse per avere l'attività? Non chiudete i massaggi cinesi che fanno prostituzione. Voglio massaggio romantico. Nessuno rompe le scatole a loro che non pagano uno spicciolo di tasse, niente. No, ma ha ragione Francesco. Intanto questo qui dell'Università di Pisa, fossi il padre, gli sequestrerei tutti i viveri. Perché voglio ma dire, ho sceso mia madre di macchina per dirvi questa cosa per evitare conseguenze. Ma ecco, non ho capito, Francesco, in quanti andavate lì dall'università? Chiamiamo la madre. Tre fissi e poi ogni tanto riuscivamo a quante volte qualcuno a settimana? Ma quante volte avevi una fidanzata? No, una settimana, non di più. Una settimana, che facevi? Pompino, seghetta, che facevi? Certo, tanto se devo spendere 50 euro massaggio e pompino, invece devo andare al trans, anzi non vado al trans, la prostituta. Scusi, che non paga le tasse, signor studente dell'università di Pisa, ma mi fa nemmeno il massaggio. Si trovi una fidanzata, le offra una pizza, la porti al cinema. Ma magari c'è anche la fidanzata, Francesco. Ma la fidanzata per ora no, per quello ci vado, se no ci andavi uguale, ancora peggio. No, ci andavo, ma magari una volta meno, una ogni due settimane, se no spendo troppi soldi. Controlli quel suo bisogno, si attrezzi da solo anziché sfruttare le cinesine. Ma scusi, ma 24 anni anche lei avrà avuto voglia di fare determinate cose. Ma ho capito, non ho mai pagato ragione nessuno Francesco per fare queste robe. Su, ma ragione Francesco, universitari di Pisa, giovani miserabili crescono, politiche, dai. Cioè, l'abbiamo trovato sul giornale queste cose. Political science. Tu fai scienze politiche dove? Alla statale? No, a Pisa, sì, certo, lo statale. L'università statale di Pisa, studente di scienze politiche, ma Francesco. Ho capito, ma voglio dire, si trovi una fidanzata, insieme ad altri insieme ad altri universitari frequentano centri di massaggi cinesi dove fanno sesso. È una porcheria, forse dei genitori sequestrerei una paghetta. Due mali scegliamo il minore, almeno lì pagano le tasse, no? Ma ha ragione Francesco, ragazzi, ma questi ragazzi vanno invogliati a fare queste cose. Delle cinesine, dai, ma una vanno porcheria. Invogliati questi ragazzi. E questa sarebbe la futura classe dirigente, ma è una porcheria, dai, una porcheria. Allora, questi ragazzi vanno invogliati a fare queste cose perché sfogano anche un po' di tensione, un po' di rabbia. Meglio questo che le manifestazioni. Ma che sei un meglio questo. Tu stai distruggendo questo paese. Tu stai contribuendo a distruggere questo paese assieme ma scusami, a queste. Francesco, amico mio, dopo questi servizietti che ti fanno. Qualsiasi servizietto si tratti di una un sesso orale, di una sedia. Ma come ti senti dopo? Affronti la vita universitaria con ma più. Ma sì, mi sento più rilassato. Vado al lavoro, su. Vado all'università più sereno. Ma sì, si contribuisce alla serenità familiare, lavorativa, studentesca in maniera molto si più densa. Una ragazza da corteggiare. E soprattutto pagando aspetta, le tasse. No? Aspetta, Francesco, però io qualche dettaglio sul tipo di lavoretti e di cose che accadono in quel centro messaggi, io te li farei dire. Ma così, per esempio, tu scegli tra le cinesi che vanno lì, cioè hai una tua preferita? No, quella che capita, capita. Sì, hai messi. Vabbè, fermo un attimo, fermo là, aspetta, fermo là, fermo. Parenzo, vai via. Ma sento tutto, solo culo niente, capito? Sì, questo l'ho capito. C'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico. Culo niente. Per una notte romantica. Culo niente. Impreparato mi coglie. Ehi, cosa fa? Capito? Chi glielo spiega a mia moglie? Massaggio tutto. Vai col massaggio romantico. Oh, oh. Vai con la notte romantica. Ma quanto è brava la Cina. Sì, solo culo niente, capito? Nell'arte della. Ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Manina. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Scopri la finanza digitale. Rimini, IT Forum, 18 e 19 maggio. La Zanzara. Cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. Un posto sì, Parenzo, dove c'è grande prostituzione, dove tu scegli una specie di mercato, sì. Con tante donne, dove tu scegli liberamente. Porcheria. No, non è una porcheria. Le donne si conquistano, le donne si portano a cena, alle donne si regalano dei fiori, dei libri, si portano a teatro, dunque, al cinema, e dopo si schienano. Caro, però intanto si schienano. Ma no, come parli? Si schienano. Ah, beh, adesso il Lord di Wellington. Voglio dire, se tu roba pazzesca, no, dai. Perché tu Renzo, non te lo puoi permettere. Voglio di dire, no, ho capito. E poi si schiena, no, ho capito. Però, scusami, io non l'ho mai detto, vita mia. No. Pronto, pronto. Ho sentito l'Accademia della Crusca. Dice che nella prossima edizione del dizionario aboliranno la parola scopare per sostituirla con il verbo schienare, CFR confronta Parenzo virgola Zanzara 2017. Beh, oh, ragazzi, siamo al top. Ciao. Il precisino Parenzo artefatto, hanno ieri fatto sera, un montaggio artefatto. No, non è artefatto, è un complotto. Ieri è sera un complotto, ha utilizzato hanno fatto un montaggio la parola artefatto. Schienare una donna. No, no, no, no, artefatto, no, non c'è niente di artefatto. È stata la corte no. Aveva uno dei suoi soliti montaggini. Ma non è vero. Sì, la corte tu hai detto è stata una donna ad arte, hai ad detto arte, una donna la si invita fatto a cena. Per incastrarmi, no. Come il Dieselgate, questo qui è il Parenzo Gate. No. Lo fate per incastrarmi voi. Sì. La corte gate questo qui. No, no, è molto chiara la cosa. No, cioè, mai detto, tu mai hai detto, detto hai detto una donna la si invita a cena, la si corteggia e poi la si schiena. No, ma ora io ti dico che la parola tutto. Schienare. Come i politici smentisco tutto. È vero, ma qui carta canta, in questo caso audio canta. Audio canta. Allora, schienare è molto peggio di tutte le cose che ha detto Ruffini agli studenti. Ma molto peggio. Ma stai scherzando? Se Ruffini avesse detto agli studenti, se Ruffini avesse detto agli studenti, ragazzi, le ragazze ve le dovete schienare, ve le dovete schienare, allora può io non l'avrei criticato, ovviamente può darsi che le critiche sarebbero state, insomma, un minimo coerenti, ma ha utilizzato cazzo. Dottore, è impossibile, ha usato parole simili. Dottore è molto elegante e gentile. Ho capito, però anche quando fa la mole è gentile, dottore. Ah, è sempre gentile. Mi dici di stare dietro la porta e di portare poi sempre dietro la porta, così fa il seghino lei. Lei no, filippino fa le seghino. Mi dice stare dietro la porta e quando finisci io porto, dottore, la carta igienica per pulire tutto. E lui molto preciso e pulito, dottore. Allora, Francesco da Pisa. No, ecco, Francesco da Pisa comunque è una vergogna per, quale, ma per gli studenti italiani. Dipende dalla posizione, Parenzo. Cioè, scusa, no, ma tu hai sentito. Io comunque è stato artefatto. È un audio artefatto. Vi porto tutti quanti in tribunale. Vi ma porto io non ti do mica conto, la penso come te. Ma dipende, io vi porto come in tribunale. Vi porto, no, ma vi schienare, porto schienare non è da Parenzo. Gli è scappato. Va benissimo. Va benissimo, perché anche lui è una bestia dentro di sé. No, ha una parte bestiale. Ha una parte bestiale. Che ogni tanto viene fuori, giustamente. Giustamente è stato un momento di grandissima verità. Cioè, come Sgarbi va a cagare ed è un momento di televisione verità, anche questo è un momento di radio verità, no, insomma, dove Parenzo tira fuori tutto se stesso, perché prima siamo perché, animali, no? No, per ma animali perché animale è lei, animale io è lei, sono, che usa certo, i soldi di suo so padre, di sua madre, per farsi fare i comodi da una signora cinese. Questa è la porcheria. E questa trasmissione questa trasmissione distrugge il paese, perché dà un'immagine pessima del paese. Ma non è vero, perché questa, vero. Questa è la futura classe dirigente, classe dirigente, che esce questa da politica science, Pisa, politica scienza politica Pisa, non ci avrà un è cazzo da fare vergogna, dopo. È una vergogna, è una vergogna che c'è un incidente in questa trasmissione, c'è un questo, incitamento alla prostituzione. Ma questo qua, fossi in quel famoso PM di Catania, di cui non voglio fare il nome perché altrimenti si sentono in sottofondo urla di gioia e di piacere per questo Zuccaro, PM. Sì. Ah. Fossi in quel PM lì, indagherei a Pisa, dici. Indagherei a Pisa questi studenti che vanno a usare il corpo, scusa, delle donne per Francesco, i loro comodi. Quanti anziché soldi gli danno i tuoi genitori per campare a Pisa a fare, ecco, lo studente appunto di scienze politiche, no, futuro, no, no, futuro disoccupato? Ah, lavoro e studio. Luca, quanto spendi per le mignotte a al mese? Più o meno? 200 al mese. Beh, buono questo qua. Mi sembra buono. Grande contributo all'economia. Pazzesco, grande pazzesco contributo all'economia locale. Ho preso il massaggio. E vabbè, quello adesso non ci veniva a pigliare per il culo a noi. Il massaggio è un preliminare, a farsi fare qualche cos'altro. Dai, su. Diciamo. Sì, ma a parità di prezzo vanno, mi fanno anche il massaggio. Ah, no? Sì, vabbè, d'accordo, adesso va bene tutto. Però, insomma, il massaggio stai lì che aspetti che quella scatti con la manina, dai, oppure con la bocca. Dai, diciamolo tutto. Dai. E forza, dai. Senti, ma dunque non c'è distinzione, cioè sono tutte bruttine queste cinesi che vanno là, oppure c'è qualche bella ragazzetta? Dove va? No, qualcuna è bellina. Poi io non apprezzo molto le cinesi, però lo fanno loro e che devo fare. Ecco, ma sono nell'arte della manina, come diceva il nostro amico Ruggero. Ecco, indaga, sono specializzate oppure ma no? Cosa indaga? Sì, meglio della maggior parte delle ragazze. Meglio delle italiane? Meglio delle italiane che conosci? Sì. Sì, ma è una questione di esperienza, cioè, è una questione di esperienza, giustamente. E questo qua, giustamente, vuole l'esperienza, vuole il servizietto, non vuole problemi, non vuole invitare a cena nessuno, non ha bisogno di fare tanti chiacchiere, tante cose, giusto? Ti rompe i coglioni. No, ma magari lo faccio, però se una volta in più, non lo so, poi sarà anche un po' trasgressivo, che mette più voglia, non lo so. Vabbè, ragazzi, scusa, amico mio, è mesi e anni che vai, mi hai detto. No, ma stiamo creando una futura classe dirigente terribile. Comunque, schienare, schienare è sinonimo di buttare giù a cane, cioè di proprio schienare, è proprio una cosa di violenza, Parenzo. Sei sessista, violento. No, tutt'altro. Una cosa di schienare una donna è violento. È stato fatto un montaggio artefatto per incastrarmi, ma la maggioranza silenziosa lo sa. Lo Francesco, sa come ciao, ciao Francesco. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ezio da Roma, vai Ezio, vai. Buonasera, buonasera. Allora, prima di tutto, perdonatemi, ma l'ultimo argomento era francamente molto triste, perdonatemi. Non perché riesco. È triste? Non ho capito. Perché spero che i ragazzi dell'età di 24 anni abbiano bravo. Cose più divertenti da fare che andare a mignotte, scusatemi tanto. Bravissimo. Amico, sì. Ma se uno ogni tanto, bravo, una volta bravo. A settimana, sì, vabbè, studente di scienza politica a Pisa. Ma senti, scienze politiche fanno, studiasse scienze politiche e non andasse a mignotte, perché la politica non è andare a mignotte. Ma io volevo parlare di un'altra. Ma tu, beh, questo, diciamo, ma sei un bigottismo, sei di un bigottismo spaventoso. Ma no, tu sei tu che sei bigotto. Ma tu vai, hai quel ragazzo, povero diverso, ragazzo, dai, poi il povero ragazzo va a scienza politica. Ma sei tu che un sei un vangelo libertario, che invece, ragazzi, bisogna indirizzarli, bisogna dire, ragazzi, indirizzarli. Non ma che sei Khrushchev? Ma chi sei? Andropov, bisogna indirizzarli. Ma non sono Andropov, ma non chi sei Andropov, manco tu, però, figlio mio, sta buono. Ma io non tu, voglio indirizzare però, nessuno. Invece, cioè, invece, no, libertà, libertà, no, libertà, non libertà. Fai altro dalla mattina alla sera. Che cosa come lo fai per scherzo? È gravissimo quello che fai, ti assicuro. Molto grave. Ma io volevo dirti un'altra cosa. Esatto, è l'altro che dice, è l'altro che dà manforte. Da manforte, certo. Tu stai distruggendo questo paese, dai un'immagine devastante di questo paese. Un modo di pensare. Ma hai ragione, hai ragione. E su questo ti volevo dire un'altra cosa, perdonami. Tu non fai altro, tu non fai altro che in qualche modo difendere l'indifendibile, esatto, o comunque esatto. Tutto è migliorato. Per esempio, dammi allora esempio. Il tizio che gira con la spada, se io giro con un manganello mi arrestano dopo 30 secondi, ma siccome infatti quello nessuno è l'ha difeso, io non l'ho difeso, per carità di Dio, non si vuol rompere ma i coglioni. Ma Parenzo lo sta difendendo, io no. Io Parenzo lo sta difendendo. Poi, quello col Sikh, col coltello. Allora, il Sikh non ha mai fatto niente, il musulmano non gli puoi rompere i coglioni, figuriamoci puoi rompere le palle al musulmano, non si fa. E poi quella col burka, e non gli potete rompere le palle a quello col burka, perché poverina c'è il burka, ma no, la sua religione ci crede. Ma chi ha detto che il burka è vietato? Il burka, cosa stai ma dicendo? Ma perché invece noi cattolici possiamo essere presi per il culo da tutti e nessuno deve dire niente? Ma chi prende tu per i fondelli? Ma cosa dici? Io parlo male di cosa? Non ci credo neanch'io, ma figuriamoci se la Madonna c'ha tempo da perdere con queste stronzate. Però perché non prendi per il culo pure quelli che vanno a vedere la pietra nera? Fammelo vedere, amico mio, visto forse ti sei perso qualche puntata della Zazzara. Io ogni tanto lavoro anche. Ecco, appunto, no, ma questo è un delitto molto grave, lavorare e non ascoltare la Zanzara. Però ti dico, no, Ezio, ti dico, ti sei perso qualche puntata della Zanzara, che certamente le mie posizioni, non dico anti-islamiche, ma insomma le mie cose sull'Islam te le sei dimenticate, forse, quello che ho detto sulle su quelli che vanno alla Mecca, sui signori che vanno alla Mecca, te lo sei dimenticato, forse, quello che ho detto. Non l'avrò sentito, ecco, però ti dico, se tu fai questo io ti stilo molto di più, perché allora mi piace sapere che sono coglioni tutti quelli che hanno una religione. Senti Ezio, il punto fondamentale è questo, il Papa ha detto, adesso sì. Io l'unica cosa che approvo di questo Papa forse, che Medjugorje è una buffonata. Punto. Ce l'ha ma detto il fatto che sia una buffonata, ma il fatto che uno ci creda, perché secondo me è una buffonata la pietra nera, capito? Però se quelli ci credono ci andasse. E perché vuol dire? Anche il Divino Telma, uno dice posso credere quello che dice il Divino Telma. Perché tu difendi il Divino Telma e non quelli che vanno a Medjugorje, che non ci credo manco perché io. Almeno il Divino Telma lo fa per gioco. Almeno il Divino gioco? Telma ci piglia per il culo ma tutti. Ma quale gioco? Ma quello è un personaggio pazzesco. Ma tu sei sicuro pazzesco. Che tu lo fai per gioco? No, io no, io che mio lo faccio per gioco. Tu non lo fai per gioco, attenzione, è ancora più grave allora. Ma cosa? No, guarda, lascia perdere. C'è sui mezzi di comunicazione, su internet, alla televisione, alla radio, noi cattolici ci vediamo soltanto sbeffeggiati, perché siamo dei coglioni. Hai visto su quel giornale francese, manco ne voglio dire il nome, la vignetta che era la Trinità, che per me è santa. Vabbè, Charlie Hebdo, certo, Charlie Hebdo. Ciao, ti saluto, ciao. Beppe, ma l'Assemblea Nazionale di Noi con Cruciani è una grande gangbang. La Zanzara. Caro David, ieri ti ho detto che questa decisione di non fare sbarcare nessuno durante il G7 a Taormina è una vergogna, ma non perché sugli sbarchi eccetera, Perché scusa, una persona normale dice: ma come? Riuscite per una settimana a bloccare gli sbarchi? E nel resto dell'anno? Cioè, per una settimana riuscì, ma non vuol lascia perdere. Ma questa è una presa per il culo colossale. È una presa per il culo colossale. Ma poi non ho capito, riescono a comandare gli sbarchi? A dire oggi sì, domani no. Allora, no, ma evidentemente il dispiegamento di forze di tutti i cosiddetti sette grandi con i loro servizi segreti, con le loro cose. Io non so cosa ne pensa su questa vicenda qua e su altre. Questa persona che è qua ai nostri microfoni dopo tantissimo tempo. Bene. Alessandro Meluzzi, buonasera. Eccomi, carissimo Cruciani. Come andiamo? Come andiamo? Bene, bene, non ci Meluzzi. Possiamo lamentare, grazie a Dio. Ricordi che lui è il capo di una chiesa. No, però, non più, non credo che sia più. Sono di una piccola chiesa ortodossa italiana, nazionale. Sì, è come fosse il Papa praticamente di quella chiesa. Ma no, adesso non userei queste parole che dagli ortodossi non le conoscono. È il primate metropolita della chiesa ortodossa italiana. Semplicemente la piccola guida di una piccolissima comunità di credenti. Tutto ma qua. Quanti nulla siete, di più, nulla di meno. Primate, quanti siete nella chiesa ortodossa? Ma circa 10.000 in tutta Italia. Insomma, una parrocchia di meno di una parrocchia di Roma. Ma ti metti anche tu la palandrana, tutte le cose ma ogni tanto? Celebro, non me la metto per andare a spasso, ma se devo celebrare, sì, ovviamente. Perché fa parte ovviamente. Allora, Alessandro, però tu al di là Meluzzi è un uomo che ha vissuto. Io questo bisogna dirlo. Questo sicuramente, confesso che ho vissuto. Perché l'ottimo Meluzzi, no, infatti, è straordinario. Che è un medico psichiatra, per chi non lo sapesse, psicoterapeuta. Ma è stato protagonista di talk show televisivi. Ma non solo, per lui, negli anni 60 estrema sinistra, poi PC, certo. Poi socialista. Poi Berlusconi. Non mi sono fatto mancare quasi non nulla. Non è mancato dai tempi nulla. Di Tele Lombardia, ti ricordi? Esatto, come e secondo no, me, tra l'altro, e secondo me, un uomo dalle passioni, no, forti, ma secondo me, si potrebbe candidare con la Lega. Io sono questo non credo. Io non credo che potrò candidarmi con nessuno perché fare la politica è una cosa di due vite fa per me. Però credo che se dovessi sostenere una posizione politica, direi in questo momento la mia, il mio orientamento, soprattutto di fronte all'oscenità di un movimento migratorio pilotato dall'esterno, per, citando Ariana Fallaci, per trasformare l'Europa in Eurafrica, devo dire che chi Meluzzino, si occupa seriamente di queste cose difende i nostri figli, difende cioè, il nostro voteresti futuro, la Lega adesso? Difende la nostra civiltà, quale che essa sia, illuminista, cristiana, cattolica. Ma tu ortodossa, voteresti la Lega? Perché l'islamizzazione dell'Europa sarà una catastrofe per tutti, anche per l'Africa, credetemi, e anche per l'Islam. Ma scusami, caro Meluzzi, tu voteresti la Lega oggi? Io voterò per chiunque prenda una posizione chiara contro questa migrazione. Vabbè, adesso non girare intorno. Potrei votare o per Fratelli d'Italia, o per la Lega, o per forse un altro partito di centrodestra, se terrà una posizione chiara su questa posizione. Cioè, no. Parenzo, non hai sentito Parenzo? Cosa vuoi che ti dica? Questa io terribile islamizzazione conosco Meluzzi da 15 anni, quindi che ti cioè, devo un pazzo dire? È saltato quando dice che c'è un piano pazzo, orchestrato dall'esterno. Meluzzi non è pazzo, perché Meluzzi è un uomo intelligente. Aspetta, Meluzzi, fammi sentire sto piano. C'è un piano organizzato un piano da chi? Organizzato, illusorio, secondo me, mosso da grandi capitali finanziari per pensare di fare una sostituzione etnico-lavorativa, siccome gli europei, gli italiani si sono riprodotti poco, si pensa di importare manodopera a bassissimo costo in Italia e non solo in Italia per realizzare poi una società che sarà assolutamente ingestibile. Questa ingestibilità è già sotto gli occhi di tutti, è la catastrofe imminente. Ma chi sono credetemi? I capi, i burattinai di questa roba qua? Chi ma sono io secondo non te? Quali non sono un uomo dei servizi segreti, ma basta aprire internet e la stampa internazionale. Questo sarebbe troppo facile. Per vedere che c'è un largo movimento che ha a che vedere anche con grandi finanze, grandi banche. C'è Soros, per esempio. Soros è uno dei nomi, per esempio, ma è uno dei nomi che non lo faccio ma perché io. Cadi? Che fanno le grandi riviste internazionali. Ma aspetto tema. Quanto vuoi, ma perché anche un uomo intelligente come Meluzzi cade in queste stupidaggini da puro basta mainstream, stupido complottista, da minchioni, da minchioni di siti di quarto ordine, scusa, dai. Tu ma chi sai che finanzia sono un grande cosa? Amante del popolo di Israele, ma non me ne frega amante. Niente Meluzzi, ma non è questo basta il punto. Che guardi, basta che guardi chi dai, finanzia ragazzi. Open Society di Soros, e quali chi... organizzazioni, quali ma ONG, cosa vuol dire? Ma la conosco benissimo. Allora capisci cosa si muove lì, ma ha contribuito Ucraina, a far cadere il comunismo nei paesi mondo. Dell'ex blocco sovietico, fa finanzia ONG per il mondo. Ma dai, basta vedere che cosa pensano nel suo paese di Soros in Ungheria. Ma come Meluzzi, scusami, cosa stanno facendo gli ungheresi per liberarsi di Soros. per fare un esempio. Ma scusami, è americano Soros adesso, per sua fortuna, ma è scappato dal comunismo. A me chi è Soros non interessa quasi niente. Ma fa schifo. Ti fa schifo lo vedo Soros. Come talmente, lo vedo come un Soros è un concetto, non è neanche ma una persona. Quale, per ma cosa ti fa schifo Soros come persona? Ed è un'immensa concentrazione di denaro e di potere. Tutta paccottiglia raccolta da siti di quarto ordine, come frequentare i peggiori bagni, i peggiori bagni. Ma non sei l'unico depositario della verità, però, Davide, non sei l'unico depositario. Però io dico che questa roba qui è paccottiglia che poi di quarto ordine. È una persona anche lui molto intelligente, che deve fare una difesa d'ufficio per qualche ragione. Ma perché stai creando un mostro su capitali, investimenti? Ma che vuol dire? Io penso stai di Soros per sapere che questa è la ma verità. Cosa vuol ma dire? Ma che cosa vuol dire? Lo vedrebbe chiunque. Ma è una persona che ha guadagnato tanti soldi attraverso il suo onesto lavoro con le transazioni internazionali. Ma pure l'islamizzazione dell'Europa. Ma figurati se lui che è ebreo finanzia l'islamizzazione. Ma cosa dici? Con la sommersione dell'Europa, da un'invasione. Aspetta. Afro, ma cosa vuoi che aspetti? Che distruggerà anche la tua di vita, anche quella dei ma tuoi cosa figli, credimi. Ma tu hai distrutto la vita dei tuoi hai figli, distrutto non la solo tua. Dei miei. Hai distrutto la tua adesso che sei arcidiacono di sto cazzo di non so di che cosa, ma scusami. Ma io non so, ma hai distrutto la tua di vita. Ma la mia, tu. Io alla mia penso sei io. Passato, io penso in ogni fase vita. Della tua vita hai sempre capito qual era la cosa da surfare, la cosa più mainstream e l'hai presa. Sempre. Quando bisognava essere comunisti eri comunista, socialista eri socialista. Quando si doveva essere berlusconiani era berlusconiano. Io sono un adesso c'è libero, sta minchiata. Io ma scusate, non ma perché? Io non ho capito, Soros, perché? Ma ti credo, allora fermi ragazzi, Alessandro, fermo un attimo, adesso c'è la pubblicità, però vi voglio dire una cosa, non è che se uno dice, Davide, io voglio dire una cosa, non è che se uno come Meluzzi, che non è un ultimo dei cretini, ti dice ma che no, c'è questa detto. Cosa, tu lo devi ridurre a barzelletta, come uno che legge su internet le cose che non si informa. Ma questa è roba che si legge su internet, ma che c'entra? Ma che c'entra? È roba da paccottiglia internettiana, come i protocolli dei sacri. Di Sion, ma non è, tutta... è la stessa cosa, sì, non sta dicendo la stessa cosa. Paccottiglia ha lo stesso lì, valore di quella che paccottiglia torniamo. La storica. Fermo lì che torniamo. Ma non torniamo. Vattene Satana, vattene Asmodeo. Asmodeo. Venti di Parenzo. Sei Asmodeo, sei. La zanzara. Allora ragazzi, con noi... Beh, avete sentito che battaglia prima, eh? Alessandro Meluzzi, David Parenzo, Alessandro Meluzzi, psicoterapeuta, primate della Chiesa Ortodossa in Italia. Libero pensatore. Libero pensatore, su questo non c'è dubbio. Io su molte cose concordo con Meluzzi, naturalmente. Però devo dire. Pensa te. No, ma che c'entra? Concordo con Meluzzi sul fatto. Come diceva sulla... Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, il buon senso se ne stava nascosto per paura del io senso comune. Io non penso che ci sia. Siccome il vostro senso comune. Ma perché il vostro... parli sempre tu? Non ho capito. Dai. Un attacco stupido a io Soros. Non ho fatto nulla naturalmente. Considerandolo attacco, il grande ma burattinaio stato di tutto. Soros è stato una minchiata. Con la guida rossa a Palazzo Chigi, la e allora, mi e pare allora che goda, ma mica è Bernardo Provenzano sai. Mamma mia, io mi sono limitato a dire che una che grande organizzazione è un finanziatore di gruppi Soros, per i diritti umani. Sì, che la conosco benissimo. Sono stato ospite suo. Ma lo fai? Che paese in cui Soros è nato? Dice di Soros, ma punto. Pensate. Ma non è che lo dica il governo del Ruanda, Burundi, ma o della Mongolia. Andiamo avanti, dai. Lo dice il paese dove niente. Soros è imbevuto di minchiate, imbevuto di minchiate. Allora, scusami. Se Soros ungherese, il popolo ungherese dice qualcosa di Soros, forse stare a sentirlo non è ma inutile. Figure, forse, scusami, Meluzzi, perché consideri Bergoglio l'antipapa? Ma io questo antipapa mi sembra un concetto pesante. Beh, l'hai scritto tu, l'hai scritto l'antipapa, tu, l'antipapa Bergoglio. Perché ci sia un antipapa, bisogna che ci sia un papa e ci sia un contratto su chi è il papa. Dico che è la prima volta, cioè non è il papa, nella non storia ho capito. Del Vaticano, che ci sono due papi, un papa emerito e un papa che in qualche modo sembrano, appaiono essere tra di loro in no, ma tu hai scritto proprio antipapa. Io non so quanto, come dire... Bergoglio dal punto di vista del diritto canonico, ma questo lo dice molto più autorevolmente di me Socci, come dire. Cioè, secondo te non è il vero Papa, non è il vero Papa. Io credo che ci possano essere molte ragioni, anche questa canonico, per dubitare che possano stare in Vaticano due papi, di cui uno ancora presente, vivente, visto da Papa, e un altro che fa il Papa. Ecco. Ma perché, perché hai scritto, perché hai detto che la gente risolve? Canonico della... Vabbè, ma quello non ce n'è. Molto sorprendente. Cioè, scuola, perché lo consideri un agente di Soros? Agente di Soros è un'espressione che forse non userei, ma che l'hai scritto, cosa. L'hai scritto, agente di Soros. Sicuramente smentisce delle coincidenze di punti di vista sull'opportunità di favorire una straordinaria, incontenibile, ingestibile migrazione dall'Africa islamica all'Europa. Se noi guardiamo le parole che dicono gli uno e l'altro, le organizzazioni dell'uno, le organizzazioni dell'altro, vediamo che c'è un consenso fondamentale. Ma la gente scappa perché ha fame, non perché glielo dice il Papa o Soros. No, possono essere d'accordo con questo fatto. Io non sono d'accordo. Però scusa, ma la gente scappa perché ha fame, perché c'è la guerra. Lo vedranno i nostri figli tra 5, tra 10, tra 15, 20 anni. Scusami. Perché è la catastrofe di un'Europa africanizzata e islamizzata. L'Europa no, perché le frontiere della Francia, della Slovenia, pensate, della Svizzera e dell'altro sono chiuse. Un'Italia africanizzata, pensate, sarà una catastrofe. Però scusami, ma l'Islam... La lotta continua a Salvini, come avete pensate visto nell'inchiesta di Gratteri, vestiti dalla mafia e con una spartizione di immensi capitali, 8 miliardi di euro in due anni, una finanziaria in un'operazione devastata e devastante, pagata dai contribuenti, le cui conseguenze saranno una catastrofe del nostro paese. Allora, e io credo che a futura memoria questa cosa apparirà chiara. Nessun paese può accogliere 100 milioni di sconosciuti che non si sa neanche da dove provengano, provocando una tempesta. Alessandro, non è un comizio, però aspetta. Sì, però non è un comizio questo qua, scusami, adesso... Non è un comizio, però sto dicendo quello no, che ma sì, stai dicendo quello che penso. Per evitare che David mi tolga la parola. Ecco, non tolgo nessuna parola, però scusami, scusami, secondo te i clandestini, sono molti di questi, sono stupratori? Perché tu, mi sembra che su questa cosa qui hai insistito, no? Cioè, arrivano un sacco di stupratori qua? Ma io vi dico una cosa, ma voi pensate che ci possono essere 500.000 di maschi che arrivano dall'Africa profonda? Basta vedere qual è il rapporto tra la mafia nigeriana, allora, e il rapporto tra l'uomo e la donna nell'Africa subsahariana, e queste persone possono stazionare tranquillamente per le città senza produrre. Cioè, siamo sono donne pubblico e bambini, ma cosa dite? Mi sembra una cosa possibile. Cioè, secondo te, secondo te siamo in presenza di un pericolo grave continuo ogni giorno? Siamo in presenza di un pericolo evidente, di cui le questure già sanno, di cui le forze dell'ordine siamo già circondati sanno da stupratori. Molte cose sono note, molte altre non siamo lo sono. Siamo circondati o da stupratori. Non hanno la facilità mediatica che ne eritano, ma l'esito di questa vicenda sarà terribile. Questo lo dico eccola a futura memoria. L'apocalisse è arrivata, l'apocalisse. L'apocalisse secondo certo Meluzzi. La lotta continua a Salvini passando per l'arcidiacolo di non so che cosa. Per il nostro ma popolo, dai, non ho capito, Meluzzi, siamo circondati da stupratori. Siamo circondati soprattutto da cretini, purtroppo. Ecco, il vero problema esatto è che più che da stupratori siamo circondati da cretini. Esattamente. Vabbè, d'accordo, ma gli stupratori, dobbiamo preoccuparci degli stupratori, sì o no? Io credo che dobbiamo preoccuparci sia degli stupratori che dei cretini. Vabbè, che d'accordo, non vedono quale situazione si può creare. Senti, Maometto, per te chi è Maometto? Finiti, Maometto quando chi saranno è finiti i soldi con cui vengono pagate 1.200 euro al giorno ognuna delle persone che stanno in questi caro, 1.200 del euro genere, al giorno. Vedrete come finirà la partita. 1.200 euro al giorno. Quando saranno finiti, non erano 30 euro al mese per ognuna, perché questo che è il costo per i contribuenti. No, 1.200 comprese le strutture e tutto. Ma appunto, il costo per i contribuenti di 1.200 euro, quando questi soldi saranno finiti, e saranno finiti presto, vedrete come saranno finiti. Aspetta che sentiamo male, però Maometto, per te chi è Maometto? Maometto è il capo di è un leader religioso, è il profeta degli islamici. Cosa volete che aspetta diciamo? Ragazzi, perché sentiamo male adesso? Non lo so perché Soros è stato. Allora, stato. Maometto è stato Soros, è stato. Maometto è un pedofilo? Ma no, ma queste sono affermazioni ridicole. Maometto è un leader religioso della seconda religione quantitativa del pianeta, che è l'Islam. L'Islam, ma non c'entra niente. L'Islam con la è intrinsecamente violento. Io sono un grande L'Islam amico è violento degli islamici. Sono uno studioso del sufismo, ho viaggiato in tutto il mondo islamico, questo non c'entra nulla con l'invasione, con la grande migrazione, credetemi, non c'entra proprio senti, nulla. Senti, ci credi in Međugorje, te? Međugorje, ci credi? Ma io credo nella Santissima Trinità e credo che la Vergine Maria abbia un ruolo importante nella Chiesa cristiana. Ma ho capito, Međugorje, una buffonata o no? Quanto Međugorje ci sono stato due volte, se gli alberi si giudicano dei frutti che danno, i frutti sono frutti di fede, di conversione, di eucaristia. E dunque il Papa sbaglia? Non sono, il Papa che cosa abbia detto il Papa non lo so con precisione, certo che se il Papa ha detto che la Madonna non è una postina, ha detto una stupidaggine nel senso che si sta pronunciando su una rivelazione privata, sarà una rivelazione che non è ancora conclusa, sì. E non è mai successo nella storia della Chiesa che ci si pronunci su un evento carismatico, profetico, prima che questo sia finito. Così come non ci si pronunciare a favore, a mio modo di vedere non ci si può neanche pronunciare contro. E quindi io credo che lui abbia offeso la fede di molti milioni di persone, circa 12 milioni all'anno che vanno a Medjugorje, e non credo che questo sia una buona cosa neanche per la Chiesa cattolica. Dice uno che non è neanche cattolico. Conosci Asmodeo? Sai chi è? Asmodeo credo che sia nella lista della demonologia, uno di quei diavoli, ma credo il diavolo del sesso. Il diavolo del sesso. No, alla nostra, guarda, alla mia età, come dire, mi tocca poco. In che senso ti tocca poco? No, nel senso che hai chiuso baracca e burattini. Non credo che sia il diavolo principale. Faresti bene a riprendere. Non so come lo sia per Sgarbi, ma io posso dire che forse i miei diavoli sono altri, forse l'orgoglio, la superbia. Non mi dire che vivi in castità. No, beh, questo è un discorso. Io sono felicemente sposato, quindi non posso dire che vivo in castità. Però sicuramente non è in questo momento Asmodeo la mia preoccupazione principale. Come si fa a guarire da Asmodeo? Molti ascoltatori ci chiamano. Come si fa a guarire dal demone del sesso, secondo te? Ma io credo, tu facendolo bene se ci si riesce, perché il modo migliore per guarire il demone del sesso è non far diventare un sesso un problema. Sai? Come diceva Seneca, noi ci accorgiamo di avere un organo quando l'organo si guasta. Sappiamo che abbiamo un cuore se il cuore batte male, sappiamo che abbiamo le gambe. Dunque se si deve guastare camminare. Qualcosa, dici? Scopriamo di avere il sesso quando qualcosa nel sesso non funziona, questo è il vero problema. Dunque deve allora succedere, un problema clinico, ci deve essere un problema. Cioè ci deve essere un trauma, dici, per non perché essere... accorgersi bisogna che ci sia una ferita, e questo è il problema. Ma se uno ha una sessualità felice, gioiosa, ben organizzata... E se uno ha una sessualità, diciamo, violenta, una sessualità ognuno è libero, di tipo spasmodico... Ognuno è libero di avere la sessualità che vuole, salvo di non fare male agli altri. Questo è l'unico principio che vale nella sessualità. Quello d'accordo, ma se uno ha una sessualità, come dire, compulsiva, che fordista, deve fare? Fordista. Se una sessualità compulsiva, come dire, si organizzi con altre persone che hanno una sessualità compulsiva. Dei gruppi quando di ascolto. Quando poi al tema della prostituzione che sentivo prima, credo che l'antico mestiere, il più antico mestiere del mondo, sia tale, cioè sia l'antico mestiere del mondo, proprio perché ha fronteggiato questo tipo di problematica. Purché sia uno scambio libero tra adulti, la cosa che non sia mi benedetta, bravo questa cosa. Purché sia uno scambio libero tra adulti responsabili e non schiavi né l'uno né l'altro, io non mi scandalizzo. Senti, una professoressa nelle scorse settimane qui alla Zanzara ha detto che il sesso anale è una cosa terribile, lo diceva dal punto di vista clinico. Credo che sia una stupidaggine, francamente. Non credo, guardi, è una delle tante varianti con le quali gli esseri umani possono provocarsi piacere tra di loro, per ragioni neurologiche, endocrine, muscolari, quindi è un'altra delle cose che non mi turba. Meno male. Né in una forma né nell'altra. Parenzo, siamo salvi da questo punto di vista. Sì, ma sì, certo, almeno... Non so cosa ne pensi Papa Francesco, chiedete a lui magari. No, telefonata per carità, no. E chiedete a lui cosa pensa. No, ma non è una buffonata questa cosa, tornando all'immigrazione, della polizia. Devo dire che nel mondo islamico la cosa viene considerata un abominio passibile di defenestrazione dal settimo piano. Questa vabbè, è una cosa anche che nel vorrei mondo, dire. In teoria anche nel mondo cattolico. Appunto. No, ma non da pena di morte, mentre invece come dire, in una certa legislazione tipo sunnita è passiva. Ma l'Islam è incompatibile con la democrazia, secondo te, con il nostro mondo? Siamo incompatibili? Dal punto di vista culturale, questo politico, assolutamente sì, anche perché nell'Islam prevarrà sempre la sharia, cioè la legge religiosa sulla legge civile. Per cui, per esempio, un islamico nel Parlamento italiano è una follia, secondo te? No, perché finché è un islamico, ma se ci fosse un Parlamento fatto in maggioranza di islamici non sarebbe più un Parlamento democratico, questo è fuori di dubbio. Ma basta vedere quello che avviene nel mondo islamico, dove la sharia, cioè la legge religiosa, prevale sempre sulla legge civile, anche in paesi civilissimi come l'Iran, dove priva sopra Presidente della Repubblica c'è l'Ayatollah, come dire, che vigila sul fatto che la democrazia stabilisce sia conforme al Corano. Questo per noi che abbiamo vissuto il 1789, sì, l'illuminismo, il pensiero illuminista, Beccaria, Verri, Genovesi, Filangieri, il grande pensiero illuminista, è inconcepibile. Ciao caro. Ciao, buona giornata, ciao. Grazie. Ciao David. Non ciao, caro, ciao. Ugo da Viterbo, vai Ugo. Vai ragazzi, ciao. vai Ugo, vai. Buonasera. Io sono, diciamo, rimasto molto colpito dal ragionamento che ha fatto il professore all'inizio. Quale? Ma del fatto, diciamo, dell'arrivo di una cultura diversa. Io mi sono chiesto molte volte effettivamente. Sì, ragazzi, questo non è un convegno filosofico, Ugo. Che cosa hai cazzo da, che cosa devi dire? Spiegami. Cioè, non, mi sono chiesto veramente, sì, il professore, eccetera. Voglio dire, dai, allora, forza. Dai, 15-20 anni fa eravamo convinti che la globalizzazione sarebbe stata. Quanto ci metto, David? Quanto ci metto? Ho paura che le sue, i suoi secondi stanno già scattando. Ugo, andiamo al sodo, cosa vuoi dire? Dacci una guida, indicaci una strada. Allora, secondo me noi dovremmo pensare che le culture comunque si incontrino. Sì, vai a fare in culo, Massimiliano da Cagliari, ciao. Sì. Amico mio, io ho detto tre volte, poi basta. Massimiliano, dimmi. Ciao, buonasera. Niente, io volevo parlare del fatto, del commento di... Di che? Di quel ragazzo lì, com'è che si chiamava? Quello lì della scuola, porca miseria, mi sono dimenticato. Chi? Ruffini? Di chi? Ragazzi, forza, di Ruffini, dai! Di Ruffini, sì. Scusa, niente, che comunque lui non è un cazzo di nessuno per parlare così, capito? Cioè, non... Ma che vuol dire non è un cazzo di nessuno? Lo hanno invitato, attore, lo hanno invitato... Ah, è un attore, certo, un attore. Allora, è un attore, forza, quindi che cazzo è? Che, com'è si può permettere lui di parlare così di fronte a dei ragazzi? Cioè, fosse un letterato, avesse studiato, avesse fatto... Ma cosa c'entra? Lo hanno invitato a moderare Ruffini, una roba sul linguaggio degli studenti. Ma lui com'è che ha risposto? Ha parlato come ha sempre lavorato. Lui ha fatto film del cazzo parlando male, il cazzo di Colorado, le altre trasmissioni del cazzo che sto facendo parolacce, battute. Ma scusa, non ho capito, frigo, perché, allora, perché sarebbero trasmissioni del cazzo? Perché? Chi lo dice? Lo dici tu? No, non lo dico io. Chi lo dice? Chi lo dice? Mica, perché è livello anche livello. Chi lo considera? Chi lo giudica a livello? Non ho capito. Comeni sei? Chi sei? L'Ayatollah? Sto esagerando, dici? No, non è che stai esagerando, stai dicendo una serie di minchiate. Sei l'Ayatollah. Cioè, decidi tu qual è il livello di una trasmissione, le trasmissioni del cazzo. Non sono io che lo decido. E allora? È quello. Vattene, va. Mohamed, provincia di Monza, dai, Mohamed. Buonasera, io chiamo perché veramente mi sono stufato, perché sono musulmano e vivo in Italia da 16 anni, sì, ma sento parlare spesso e genericamente dell'Islam senza mai prendere il tempo di spiegare di quale ramo dell'Islam si parla. Il ramo dell'Islam lo vai a spiegare a Linea Notte da Manoioni? No, lo spiego a voi. No, non lo devi spiegare a noi, perché a noi non ce ne frega nulla. A me frega invece, perché c'è un appiattimento culturale spaventoso in questo paese. Appiattimento culturale in questo paese. Mohamed dalla provincia di Monza. Certo, lo dico con orgoglio. Lo anche dico perché... con orgoglio. Tu essere muslim, allora. Ma tu essere così. È una persona colta. È colta questa persona. Perché devi prenderlo in giro? Non mi parlare così, perché se andiamo a vedere bene, quello che oggi spinge i migranti a venire in Italia non è perché c'è un sistema per la sostituzione dei popoli, sono stronzate quello. Allora, quello che oggi soffrono quelle popolazioni è per mano dell'Europa stessa, che ha tracciato le frontiere. Sì, è colpa nostra, allora, è colpa nostra. È certo che è colpa vostra. Tu sei in Italia da 16 anni e adesso ci vieni a rompere i coglioni sul fatto che è colpa nostra che arrivano i migranti qua. Ma giustamente, il fatto di colpa stare nostra con voi non può. Ma che sei egiziano? Che sei egiziano? Ma non mi interessa. No, non mi interessa. Hai chiamato? Mi interessa a me. Scusa. Ma no, allora io sono senegalese. Ah, Senegal, sempre amici della spada di fuoco. Senti come parla bene italiano. No, come io sono argomento. Senegalese, ma vi dico. Sei vi amico dico, della spada di fuoco? Ma no, che amico, io non sono perché, amico che di amico? Nessuno. Perché tratti male la spada di fuoco? Scusa, ma smettila. Ma perché smettila? Amico nostro spada di fuoco, perché lo tratti male? Ma è amico tuo, ma non può essere amico mio. Allora, perché io, non può essere amico tuo? Scusa, non ho capito. Ma perché non lo conosco, non so chi sia, non mi interessa. Ma non lo stai trattando male, spada di fuoco, l'amico nostro. Giustamente, non me ne frega un bel niente di quello. Aspetta, fermala che torno con te, Mohamed. Vado a fare la pipì un attimo. Ma che vai a fare la pipì? È proibito. Fai là come Sgarbi, sgrullalo bene, però. Sgrullalo bene. Dai la mano, sai che Sgarbi a un certo punto ha sgrullato il pisello mentre faceva la pipì. E poi ha dato la mano a uno. Siete degli sporcaccioni, sì. Mandiamolo a fare in culo. Lorenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Sei il più grande culatore del mondo. Cattiva! La zanzara. I was Cruciani, sono qui col mio coinquilino. Noi ti amiamo, cioè lui ti ama, credo, in una maniera particolare. Io amo più Parenzo. Maggioranza, sì. Stiamo guardando il servizio delle Iene sul compleanno di Sgarbi e abbiamo una domanda. Ma con che cazzo di cappello vai in giro? Sei un coglione, Cruciani. Cruciani, un coglione. Non siamo al top qua. Merda! Cruciani, ho visto le immagini del compleanno di Vittorione. Ora mi chiedo, come hai fatto a metterti quel cappello bianco inguardabile? Ti prego, la prossima volta non lo mettere mai più, che se non te l'hai rimesso con la Risi era fatta. Allora, voglio dire solo una cosa, caro David, non avete capito un cazzo. Pezzenti maledetti che non siete altro. Pezzenti maledetti. Bello, truffatori attacco. E pezzenti. Cani rabbiosi. E soprattutto nulla facenti. Gente no, ma non loro che lasciano i messaggi. Quelli no, no, ragazzi, loro, è loro. Un, sì, quelli che hanno lasciato questi no. messaggi, non tutti. No, in generale tutti. No, che tutti. Sì, io ragazzi, a tutti. Quello è un cappello di Borsalino. Ma di che state parlando? Un cappello meraviglioso. Non rompetevi i coglioni con questa roba qui. Il cappello bianco del servizio di Sgarbi. Mi hanno dato sto cappello e me lo sono messo, un cappello di Borsalino, pezzenti maledetti. Non avete capito un cazzo! Non avete capito un cazzo! Cruciani, non fare il grande, sei un servo di merda. La Zanzara. Giuseppe. Hai rotto il cazzo con questa cosa che non si sente. Si sente benissimo, devi dire ai tuoi tecnici dell'audio che ti mettono o delle cuffie più grandi o che ti alzano l'audio, perché sei tu che non senti un cazzo, noi sentiamo perfettamente. Grazie. Allora ragazzi, eravamo con Mohamed dalla provincia di Monza. L'amico Mohamed, non ho capito bene quello che voleva dire sui migranti eccetera, non ho capito bene. Innanzitutto ha detto che è colpa nostra il fatto che arrivano perché li abbiamo colonizzati. Altra puttanata inaudita. Vabbè, no? Questo... Giusto Mohamed, altra puttanata inaudita. Puttanata o no? Ogni parere è lecito. Io quello che sto per dirti. Tu quante volte preghi al giorno? 5 volte. 5 volte al giorno preghi? Come sì. fa la preghiera tua? La tua principale preghiera come fa? Come fa? Come fa il tono, le parole, quali sono quelle che usi? Ma senti, io vuoi convertirti? Ci no, posso ma è interessante. Può darsi, bella acquisto, fammi convertire. Allora, bella acquisto, fatti, distrugge pure l'Instagram. Vai su Wikipedia e guarda. Non lo so, dimmelo tu. Sono, sei qui. No, non c'è tempo, non c'è tempo. Sei qui con me, sono... com'è che fa Allahu Akbar, per esempio? Allahu Akbar è glorificare il nome di Allah. Che, ma com'è, come lo fa? Come lo fa? Che per te, è Dio, per qualcun altro è no, per carità, ma io va bene tutto. No, ma come si dice in tono? Non dire che va bene tutto perché non sei coerente allora. No, ma va bene tutto, uno può credere anche al divino, te l'ho detto. Allora, Mohamed, dimmi una cosa. Come si dice Allahu Akbar? Detto bene. Allahu Akbar. Bello, detto da un arabo, da un musulmano. No, non sono arabo, non da sono un senegalese. Vedi, quello che tu sei già smemorato, cazzo. Ti ho detto che senegalese, sono senegalese. Ho detto, ho aggiunto senegalese. No, piuttosto di Allahu Akbar. Chiamami senegaliano. Senegaliano. Sì, sì, e non pronunciare il nome con di Allah. Con chi sei sposato, amico mio? Ma che te ne frega a te? Con un italiano? Ah, scusa. Sì. Con un italiano? No, è per sapere. Non fagli la domanda problema. Classica. Ma no, assolutamente. Avanti con la domanda classica no. che fai a tutti in genere. Assolutamente no, per carità. Scusi, signor E per completare la tua informazione ti dico che mi sono sposato in chiesa con il rito misto. E quindi Paolino. Se qualcuno continua a sparare le puttanate, ma i musulmani cosa? Mi piace il migrante qua, che sei incazzato, mi piace. Vengono qua a rubarci il lavoro. Il problema dell'Italia non sono i migranti. Se vuoi io ti faccio l'elenco di quello che ho potuto vedere in questi 16 anni. Sì. Vado? Il problema di chi sono? Gli italiani sono. Gli italiani. No, ti dico la corruzione. Sì, va bene, lo sappiamo. Un'amministrazione pubblica dinanzi ai cui tempi il Bradipo e Usain Bolt. Poi? la permanenza di un gruppo di individui per più di 30 anni nelle alte sfere della politica e che si garantiscono le pensioni remunerative, cioè, dici... lasciando la povera gente con la pensione ministro, contributiva. Ministro Mohamed, ministro Mohamed, bellissimo, un domani ce lo dobbiamo augurare. Mohamed sta dicendo sostanzialmente che noi italiani siamo la causa dei nostri mali, gli immigrati sono ogni popolo ha la guida che si merita. Bravo. Dunque siamo stati dei poveri stronzi in questi anni. No, non ho detto questo. Una cosa è certa. E noi siamo chi semina? No, ripeto, chi semina povertà raccoglie profughi. Raccoglie profughi? Che cazzo vuol dire? Giusto che questo. Bravo. Continuando a sfruttare il sud del mondo, cosa pensate? Che la gente non cerchi una vita migliore del nord? Basta con queste puttanate, su, basta. Cruciani, dimmi, tu sai da dove proviene la benzina che metti nella tua auto? Da dove viene? Dai. La benzina che metti nella tua auto da dove viene? Sì, per due terzi viene dalla Nigeria. Oh. Allora ti stupisce che le ragazze prostitute spesso africane lunghe le nostre strade statali provinciali siano nigeriane? No, assolutamente, vengono qui a fare le prostitute per guadagnare, per avere soldi. Ma perché allora, nonostante i miliardi che il governo italiano versa nelle casse del governo nigeriano, è un governo di ladri, infatti, ha ragione. Allora, perché l'Italia, per paese responsabile, non può scegliere di comprarsi il petrolio ovunque altrove? Vabbè, ma è un tema più largo questo qua. Ciao Mohamed, ti saluto. Allahu Akbar. Basta, non bestemmiare. Come si dice? Allahu Akbar. Ciao Cruciale. Allahu Akbar. Che non sei altro. Ciao. Allahu Akbar. A me piace l'islamico. Vai, allora, ragazzi. Spada di fuoco. Vai sempre spada di fuoco. Maurizio da Parma, vai. Maurizio? Niente, Vito Viterbo, dai, richiamate Maurizio, Vito. Oh, Vito, su, forza ragazzi. Vito chi? Vito Viterbo. No, io sono Vito Martin Sicuro. Vabbè, uguale, dai, Vito, forza, dai, dimmi. Allora, io volevo dire una cosa, tre cose brevissime a Parenzo. Sì, dimmi. Parenzo, ma ti rendi conto che tu, in questa trasmissione, sei funzionale agli interessi di Crociani? Perché? Perché tu hai un pensiero precostituito a prescindere dai fatti in discussione. Dopodiché hai detto che quello povero studente di Pisa che si faceva fare i pompini dalla cinese e non ti rendi conto che l'Italia nel suo sviluppo è stata formata da una classe dirigente che si andava a fare i pompini nei casini. Vito da Viterbo. Beh, è vero però, vabbè, è vero. Vito. Cioè, è vero, i pompini, le scovate, le inculate. Dimmi vabbè, ma che vuol dire Vito? Scusami, spiegami. Se che io devo ascoltare vuol dire che non c'è nulla a che Vito. Vedere la classe dirigente... Cioè lui dice che quando c'è quando io sono pagato a sufficienza per ascoltare il parere di Vito. Certo, secondo me no. Dire un'altra cosa, Cruciale, no, Vito sta dicendo una cosa. Vito sta dicendo secondo che quando c'erano i casini, la classe dirigente andava nei casini. Per cui che c'entra il fatto che hanno sviluppato l'Italia che è diventata la quinta potenza industriale. E quindi perché lui ha detto che classe dirigente ci abbiamo per il futuro, mamma per lo mia, studente Vito, universitario caro che Vito, fare il pompino dalla cinese. Caro Vito, beato te che sei stupido, guarda. Beato che è stupido. Beato lui che è stupido. Beato lui che è stupido. Perché essendo stupido non capisce. Quindi beato chi è stupido. Vai, beato chi sei stupido. Parenzo, devo dire un'altra cosa. Complesso. Quando tu beato dici... te che sei poco complesso. Parenzo, quando sì, tu sentiamo. Dici che gli immigrati scappano dalla povertà, sì, ecco, dalla guerra, dalle anche, guerre, sì. Ecco, scappano sì. dal cambiamento climatico, ma non pensi che inconsciamente questi scappano dalla loro cultura e dalla loro religione? Perché non combattono? Tutti i popoli hanno combattuto, questi sono tutti giovani, perché no? Lì combattono tutti. I giovanotti fuori, ma lì combatte, ma donne e bambini spesso scappano per la libertà, per lo sviluppo, per la democrazia, Vito, per l'emancipazione è arrivato familiare. Vito, perché è arrivato non Vito. Combattono? Fermo. Amici miei carissimi, siete in ascolto la pubblicità. Pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Scopri la finanza digitale. Rimini, IT Forum, 18 e 19 maggio. La Zanzara. Sei partito per il grande stipendio a condurre trasmissione con Cruciani. Io son rimasto a pulire e lustrare molteplici bottiglie di champagne. Mi hai detto tra 5 minuti chiudiamo, ma i miserabili ti tengono ancora là. Qui tutto pulito dal vino al salmone, all'ostie e caviali a volontà. Torna a Padova, torna a Padova, dottore aperitivo più non fa. Torna a Padova, torna a Padova, a Roma c'è lì caldo e casa pound. Torna a Padova, torna a Padova, senza te Bitonci trionferà. Torna a Padova, torna a Padova, la maggioranza silenziosa aspetta te. Allora ragazzi, a proposito di Padova, leggo questa mattina su un quotidiano nazionale, caro David, un titolo sì, abbastanza sconvolgente. Il titolo è questo, senti: ai nostri ragazzi si sta accorciando il pene. Cioè, il titolo è proprio così: ai nostri ragazzi si sta accorciando dove il lo pene. Hai, dove l'hai scovata? L'endocrinologo che abbiamo ai nostri microfoni, sì, che si chiama Carlo Foresta, docente, sì, all'Università di Padova, ottimo, lancia l'allarme. Professor Foresta, ottimo. I danni all'ambiente modificano la genetica maschile. I ragazzi hanno arti sempre più lunghi. Arti, cioè le mani, i piedi, le braccia, le gambe, eccetera. Sì. Ma testicoli e pene ridotti. La colpa è di interferenti endocrini presenti negli alimenti, nell'aria e nell'acqua. Ci sono conseguenze sulla salute riproduttiva e pure il pericolo che si sviluppino forme di ermafroditismo. Oh, povero, ma come farà Mercurio? Mamma pazzesca. Mia. Povero Mercurio. Professor Foresta, buonasera. Buonasera a lei, che ha fatto una presentazione bellissima. Ecco, beh, professor, caro professor Foresta, lei innanzitutto è in collegamento via viva voce, sì, via dov'è? Auricolare? No, no, sono con un telefono normale. Meno male, meno male, si faccia sentire bene. Allora, ma veramente siamo in presenza del fatto che ai nostri ragazzi, noi siamo salvi, credo, perché lei ha 66 sì, anni, io ce n'ho 50, Parenzo ce n'ha 40. 41. Non c'è possibilità per noi che si accorci il pene? No, le assicuro che è tutto a posto, guardi. Guardi che prima di noi stanno pagando le conseguenze di questo inquinamento. Sì. Gli alligatori della Florida. Vabbè, ah, scusi, gli alligatori della Florida, che senso? Ma che cosa hanno? Quindi, scusi, che succede a questi ora, pesci? Ora le dico, ma anche gli orsi polari. Cosa succede? Che in queste zone, sì, gli inquinamenti sono molto concentrati per i particolari venti e concentrazioni. Sì. Allora, gli alligatori hanno gli si è ridotto il pene e gli si è abbassato il testosterone. Scusi, ma scusi parentesi, ma un alligatore ha il pene? Ma certo, ha anche la possibilità di produrre testosterone. Ma c'è ancora un'altra cosa importante, che gli orsi polari, sì, hanno una anomalia della formazione dei genitali, sì, con manifestazioni di ermafroditismo. Cioè, scusi, quindi, non ho capito, le modificazioni del clima portano all'ermafroditismo degli orsi polari? Non le modificazioni del clima, ma gli interferenti endocrini. Che e che vuol dire? Ma cosa me ne frega a me con tutti i problemi del mondo? Ha messo del pene dell'alligatore, guardi, francamente. Guardi che interferiscono anche sulla prostata, stia attento lei. No, ma scusi, ho capito, alla radio della Confindustria che parliamo della grandezza del pene dell'alligatore, amico mio, adesso va no, benissimo. No, però aspetta, professor Foresta. La Confindustria, insieme a tutte quante le altre industrie, ha un ruolo importante in questa catastrofe. Cioè, adesso salta fuori che la Confindustria incide nel dimezzamento del pene. ma di invasione devi mettere via. Siete degli assassini di imprese, ma siete dei criminali. No, però guarda, aspetta, questo è interessante. Questo è molto criminali. Interessante. Allora, il professor Foresta sta dicendo che l'industria, compresa quella italiana, contribuisce in maniera sostanziale alla all'accorciamento del pene, giusto? Alle modificazioni strutturali antropologiche dell'uomo. Cioè, tra che cui che comprendono anche il pene. Certo, che comprende, che ha capito, con tutti i problemi che abbiamo, appunto. Anche questo. Vabbè, d'accordo, vabbè. Sì, ma inseriamolo nel contesto giusto, perché l'incremento del tumore del testicolo non le interessa? Oh, mamma sì, come no, no, per nulla, ma per nulla. La riduzione della produzione degli spermatozoi non le interessa? E poi che altra catastrofe c'è, oltre al cancro al testicolo, la riduzione degli spermatozoi? Beh, ecco, l'uomo ha meno testosterone. È chiaro che noi non gliela facciamo, perché ormai siamo avanti bene, a pagarne le conseguenze, ma non si pone un'attenzione maggiore e vedrà che le cose saranno sempre più però complete. Scusi un attimo, adesso le cause quali sono di questo accorciamento del pene nei ragazzi e come l'ha verificato lei? Come l'ha verificato? Ragazzi no, di che età? Noi abbiamo studiato 2000 ragazzi di 20 anni. E abbiamo studiato tutte le misure antropologiche. Certo che fa scoppio parlare del pene, parliamo di tutto. No, parliamo del pene, parliamo del pene. Parliamo del pene, ma inseriamolo nel contesto generale. Sì, non sì, ma partiamo... Non siamo mica quelli che fanno il gossip. Noi abbiamo visto che tutte le strutture antropologiche sì. che sono governate dagli ormoni maschili sì. stanno subendo delle modificazioni. Tra cioè, queste anche il pene. Ma il rischio qual è? Quello di essere un po' più tutti effeminati? Il rischio... Corriamo il rischio di diventare unisex. Noi nasciamo maschi perché abbiamo il testosterone. Se non ci fosse il testosterone, nasceremmo femmine. Ok, ma il pericolo da dove viene? Qual è? Cioè, dove vuoi che venga? Da dove viene questo pericolo? L'inquinamento? Il pericolo che cosa? Viene perché queste sostanze chimiche, sì. già al momento dell'embrione, dello sviluppo embrionario, vengono ad interferire con la produzione degli ormoni del maschio, dell'embrione maschio, portano ad un'alterazione dell'organizzazione strutturale dell'embrione e poi in fase adolescenziale allo sviluppo degli organi. E che cosa bisogna fare per cambiare? Scusi, per avere... Bisogna stare attenti all'ambiente, bisogna... Vabbè, ma quello va bene, d'accordo. E poi bisogna non aggiungere, come dire, fuoco al fuoco, cioè? Nel senso che bisogna evitare tutte quelle sostanze nella vita normale che possono aiutare, come dire, l'attività di queste interferenze. Scusi, per esempio, mi faccio un esempio di una cosa che bisogna evitare. Adesso per non farsi accorciare il pene, che lei la agita moltissimo, l'obesità. Questa per esempio è una causa che si aggiunge. L'obesità fa accorciare il pene alla lunga? L'obesità riduce la produzione degli ormoni maschili. Una roba incredibile. Se siete obesi, praticamente ci sono meno ormoni e dunque di conseguenza. Ma il pene di quanto si è accorciato negli ultimi anni? Ecco la domanda scientifica. Negli ultimi 50 anni di 0,9 mm. Cioè, di 9 mm in media si è accorciato? Sì, ragazzi, sì. Andate, ma è una cosa che no, riguarda. Sono, siamo lì a misurarlo. Beh, come no? È fondamentale quello. È fondamentale. Per Mercù, anche quei 9 mm sono tanto per Mercù. Cazzo, 9 mm. 9 mm, comunque, ragazzi, 9 mm sono 9 mm. Piove sul bagnato, allora. Ma che ne sa lei di Mercù? Lo sa, vedi, un caso clinico sul quale hanno studiato. E i testicoli pure si sono ridotti? Del 30% dei ragazzi il volume dei testicoli è inferiore alla media normale. Mamma mia, ragazzi, ma è una cosa incredibile. Ma cioè... le sembra un argomento da portare nella radio della Confindustria? Ma veramente siamo noi che l'abbiamo chiamato. Sì, no, cioè... tra l'altro. Adesso volete dirmi che quelli della Confindustria non vanno incontro a queste modificazioni sui testicoli? Non credo, no. Sì, assolutamente, come tutti. Loro sono esenti. I nostri editori sono esenti da questi comunque, mali tragici. La sentenza è questa. La sentenza è questa. I danni all'ambiente, i prodotti chimici, eccetera, eccetera, stanno modificando praticamente il maschio, meno testosterone, pisello più piccolo, tutti quanti potremmo diventare unisex se già non siamo unisex. Lei per esempio, dottore, ha una parte frocia? Prego? Ha una parte frocia lei? Assolutamente no, vuole che... No, ma cioè, tutti abbiamo una parte frocia. Se uno conosce bene i trucchi del mestiere, la evita. Ma guardi che la parte frocia ce l'abbiamo tutti, cioè... Ma guardi, allora devo supporre che lei ne abbia già una... Io ho assolutamente una parte frocia. Bene, assolutamente. Ma come tutti, ma anche lei ha una parte frocia. Tutti quanti abbiamo una parte omosessuale, femminea, assolutamente. Certamente può anche essere, ma non sto qui adesso a fare la mia psicanalisi. Cioè lei è fieramente eterosessuale, diciamo, no? Io sono normale, lei nell'ambito della normalità. Ma perché i gay sono anormali? Non ho capito. Ma lei, in termini statistici, sa cos'è la normalità? Sì, vabbè, in termini statistici ho capito. Io sono nella normalità. Sì, ma lei come li considera i gay? Scusi, lei che lavora su queste cose? Persone che sono in una parte della campana della normalità. Una parte della campana della normalità. Cioè, ma non ha studiato statistica, ha capito cosa voglio dire. Non è che mi dice che sono malati, no? Assolutamente no, ma chi ha detto una cosa? No, del genere? Ma molta gente lo pensa, che ne sa? Cioè... Beh, ma non siamo certamente noi. No, assolutamente. Ma vuole che ne dica una cosa interessante? Mi dica assolutamente. Dunque, un esperimento bellissimo per dire quanto sono importanti questi interferenti endocrini. Sì. Un esperimento bellissimo ha visualizzato che quando un gruppo di topini nell'utero si sviluppa insieme. Di topini nell'utero? Topini nell'utero della topa. Sì, topini nell'utero della topa. Questo sì. Mancava. Allora, l'utero c'è il topino maschio che è circondato da sorelline femmine, quindi lui maschio e tante femmine, nasce con un'aggressività minore che fa pensare quasi alla omosessualità del topino. Invece? Per dire quanto gli ormoni sono importanti anche nello sviluppo della sessualità. Allora, abbiamo il topino nella topa di chi? Il topino nella topa della topa, praticamente. No, il topino... Durante lo sviluppo embrionario dentro la topa, dunque lei sa che i topini dentro la topa. Dentro la topa, certo. Dentro la topa. Ragazzi, della topa. Ma però. Questo qui non è Piero Angela. Di no, ma è così, parlando? Dentro la topa della topa, dentro il corpo della topa, diciamo così. Certo, i topini, a contatto, topini. Lei dice, a contatto? Questo per dire che gli ormoni possono essere molto importanti anche nell'ambito del comportamento sessuale. E questi interferenti endocrini, chissà cosa faranno poi. Mamma mia. Arrivederci, professore. A presto, salute. Grazie. Buona ciao, giornata. Ciao, ciao. Saluti, saluti. Munnez, parlate di Pucciac. Beh, alla fine di quello abbiamo parlato, eh? Sempre, si finisce sempre là, caro. Però ragazzi, io vorrei chiudere prima con un intervento. Non ho idea. Chiudere no, baracca. No, c'è un Paolo Ruffini su questa vicenda delle parolacce? Mandatemi un Ruffini intanto, eh? Messaggio mandato al sottoscritto dall'amico Ruffini, vai. Cioè, il problema non era l'omofobia, ma la parolaccia, capisci? Il problema non è l'omofobia, è la parolaccia. Questo è il paradosso, questa è l'ipocrisia incredibile, è incredibile. Cioè, quel ragazzo lì che ha detto una cosa gravissima, in realtà il problema è che ha detto una parolaccia, capisci? Che poi alla fine dell'incontro, alla fine del ragionamento, alla fine di un momento di scambio eccezionale tra i ragazzi, alla fine di tutto questo, quel ragazzo ha detto... Proverò a cambiare idea. Per me questa è la vittoria. Tutto il resto è silenzio. Bravo Paolo! Bravo, bravo, bravo, bravo, grande, grande. Bravissimo, ancora bravissimo. Ruffini su questo, ancora bravissimo, Ruffini. Giusto, bravo. Aggiungo che quando le parolacce sono stupide, o comunque quando le parolacce sono per farsi una risata insieme, ovviamente sono soltanto parolacce. Le parole ostili, che era il vero titolo dell'incontro, sono altre. Le parole ostili sono quelle che usano le persone per descrivere le parolacce che ho detto io. Sono le persone che hanno usato parole ostili nei miei confronti. Cioè, alla fine sono stato io bullizzato. E infine Ruffini ha ricevuto l'appoggio anche di una suora. Si è schierata a mio favore anche una suora. Maurizio da Parma, vai! Pronto? Dimmi Maurizio, dimmi. Ciao, io volevo brevemente dire una cosa. Nella vita può capitare di avere a contatto con delle entità, delle energie positive e negative, a prescindere da uno che ci possa credere o no. A me è successo sia una che l'altra. Cioè, non ho capito. Sulla mia pelle. Cioè? Per esempio, io ho una tipografia. Anni fa, quando ancora c'era il mago Telma che andava per la maggiore sui canali privati, pure. Una Parma fabbricava e aveva una bella fabbrica, i ceri e tutto la carta per... Un giorno mi ha commissionato praticamente. Cioè, tu mi stai dicendo che hai sviluppato delle capacità da veggente? Non da veggente, no. Prima ti dico la cosa. La no, perché adesso ho poco tempo, magari ti rimando a domani. Ma hai avuto una premonizione anche tu? Cioè, hai avuto dei segnali che vengono da assolutamente, fuori? Assolutamente, assolutamente. Non so, mi è capitato in un periodo, in un mese, che dicevo a mia moglie, ma quei ragazzi delle Marche che erano magari 7-8 mesi, sì. E dopo due secondi squillava il telefono ed erano loro. Allora, Maurizio da Parma domani ci racconterà le sue capacità. Pensa da veggente, tra virgolette. Ci mancava, guarda, non ho neanche la forza. E le premonizioni, ma perché lo devi pigliare per il culo? No, magari sono cose vere, scusami. Sai che non ho neanche la forza. Vuoi avere una premonizione su quello che faccio adesso? Qual io? Vuoi averla o no? Che te la vai a fare il culo, sì, è vero. Te lo sto per mandare, esatto, però non posso farlo perché il tempo è scaduto. Maurizio, a domani, ti abbraccio. Questa è la premonizione. Ciao a tutti, forza Ruffini! Ciao! Ciao. Avanti. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Volevo dire che Vittorio Sgarbi mi ha veramente rotto il cazzo. Radio 24. Libera la voglia di fare. Naturalmente.